English Bit di Giulia Crivelli. Deal. Floods, how to deal with them. Le inondazioni, come affrontarle. Il titolo della copertina dell'Economist di settimana scorsa ci dice due cose. La prima è che se il più importante settimanale di attualità economica e geopolitica al mondo mette in copertina le inondazioni che hanno colpito India, Pakistan e Nepal, forse gli altri magazine internazionali, e in particolare europei, hanno fatto male a ignorarle. La seconda cosa è l'uso del verbo to deal, irregolare, to deal, dealt, dealt. Tra i più versatili dell'inglese. Whose turn is it to deal? A chi tocca dare le carte? He dealt me with two aces. Mi passò due assi. Poi c'è il significato legato alla droga. You can often see people dealing openly in the streets. È facile vedere persone che spacciano in strada senza nascondersi openly. Poi c'è l'accezione più negativa. That's the way it is. She doesn't love you. Deal with it. Le cose stanno così. Non ti ama. Fattene una ragione. Passiamo ai phrasal verbs. The company deals in computer software. L'azienda si occupa di programmi per computer. The profits were dealt out to investors and other stakeholders. Gli utili furono distribuiti a investitori e altri stakeholders. Have you dealt with these letters yet? Ti sei occupato di queste lettere? He's good at dealing with pressure. È bravo a gestire la pressione. Usato come sostantivo, è altrettanto duttile. They spent a great deal of money to buy the house of their dreams. Hanno speso molto denaro, a great deal, per comprare la loro casa dei sogni. They were hoping for a better deal. Avevano sperato in un accordo migliore. I got a good deal on the car. Ho fatto un buon affare con la macchina. Espressione molto comune è what's the deal? Che significa what is happening? What's the deal? Do you want to go out or not? Tell me. Allora, cosa vuoi fare? Uscire oppure no? Dimmelo. Forse qualcuno ha poi sentito parlare del New Deal di Franklin Delano Roosevelt, la politica economica che venne introdotta dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, intesa come trattamento anche economico e fiscale. If elected, the party has promised a New Deal. Se vincerà, il partito ha promesso un nuovo corso. Dealer non è solo trafficante di droga, he's a dealer in second-hand cars, è nel settore delle macchine usate, e anche dealing, come spesso accade con il gerundio in inglese, può essere usato come sostantivo, si pensi a shopping. Have you had any previous dealings with this company? Hai mai avuto a che fare con questa azienda?